piano. Di Enrico Ruggeri. Oggi vi racconto la storia di una delle persone alle quali ho voluto più bene tra le persone che non ho mai conosciuto. Uno di quelli che secondo me ha scritto la storia della musica, anche se da un ruolo non centrale. E ve lo faccio presentare, se così si può dire, da David Bowie, che nel maggio del 93, dai microfoni del famoso talk show americano di Arsenio Hall, rende omaggio a questo straordinario chitarrista che era morto solo pochi giorni prima, un chitarrista col quale lui aveva condiviso i trionfi degli anni 70. Ascoltiamo cosa dice Bowie di lui. Una domanda veloce: hai parlato di band, di persone con le quali hai suonato e suoni. Vorresti parlare per un attimo di Mick? Sì, la band The Spiders from Mars. Quella è stata la situazione che mi ha portato il grande successo dei primi anni 70. E il leader e chitarrista della band era Mick Ronson. E sfortunatamente, tragicamente, è morto a causa di un tumore 3 o 4 giorni fa. E in questo momento così triste voglio dire che di tutti i chitarristi degli anni 70, Mick è stato probabilmente il più influente e profondo, e mi manca molto. Eh sì, definizione che condivido. Tra tutti i chitarristi degli anni 70 è stato il più influente e profondo. Un chitarrista profondo, dice di lui David Bowie. Mick Ronson, soprannominato Ronno, è stato molto più di un chitarrista. È stato un cantante, un polistrumentista, un arrangiatore sensibilissimo, un produttore straordinario. È stato il leader della band storica di supporto di Bowie, gli Spiders from Mars. Però ha collaborato con tanti grandi artisti, da Elton John a Morrissey, ha partecipato a tour storici con Bob Dylan, ha collaborato con un'altra band epica, la band di Ian Hunter, i Mother Hoople. È stata una figura particolare, un grande animale da palcoscenico, però fuori dal palco è stato un uomo semplice, diverso dalla iconografia della rockstar di quegli anni. E noi gli dedichiamo la nostra puntata. Mick Ronson, che è morto molto giovane nel 93, aveva solo 46 anni, aveva un terribile tumore al fegato. È stato tante cose Mick Ronson, un musicista determinante che ha influenzato la musica negli anni 70, ha avuto un ruolo decisivo nella prima parte della carriera di Bowie e ha contribuito allo sviluppo di un certo modo di suonare la chitarra. E poi ha fatto conoscere la canzone italiana all'estero, perché lui era un grande appassionato di musica italiana, ha interpretato dei brani soprattutto di Baglioni e di Battisti. Pensate, io ho conosciuto Battisti attraverso Mick Ronson, perché da ragazzino ascoltavo solo musica anglosassone e quindi ho scoperto che Battisti scriveva delle cose interessanti grazie a lui. Mick Ronson nasce il 26 maggio del 1946 a Kingston-upon-Hull, nello Yorkshire, in Gran Bretagna. Origini semplici, viene dallo Yorkshire, che è una terra tradizionalista, una delle più antiche celebrate contee d'Inghilterra. E questo ha un peso nella sua educazione e nel suo stile di vita, che lui mantiene inalterato, anche se arriva a calcare i palcoscenici di tutto il mondo. Pensate che la sorella di Mick, Maggie Ronson, corista con lui e Bowie, ha organizzato negli anni dopo la morte del fratello molti eventi in suo onore. Ci racconta un particolare che ci fa capire che tipo era Mick Ronson. Mick non è mai stato attaccato ai soldi. Anche se guadagnava tanto, viveva con poco e soprattutto non approfittava della sua condizione. Una volta mi ricordo che i ragazzi dei Guns N' Roses gli avevano detto: «Ma come? Non ti fai regalare le chitarre che suoni?» Lui non l'aveva mai fatto. La sua ultima automobile era una vecchia Toyota Corolla che faceva un rumore come un asciugacapelli rotto. La famiglia di Mick è molto sensibile alla musica, suonano tutti qualche strumento, cantano. Lui da bambino inizia col pianoforte classico, poi col violino, poi suona l'organo, poi passa al violoncello, ma quando sente suonare il grande chitarrista Duane Eddy rimane folgorato. Eh sì, perché queste note basse di Duane Eddy gli ricordano il violoncello che gli piace tanto, però che è più complicato della chitarra da portarsi dietro. La chitarra gli sembra uno strumento più adatto da suonare in qualche band. E infatti a 17 anni lui debutta nella sua prima band, si chiamano The Mariners, poi va a suonare in un altro gruppo, The Crestas, un gruppo di ragazzi piuttosto noti nello Yorkshire. Dopo una breve parentesi londinese riesce a entrare nella top band di Hull, della sua città. Si chiamano The Wraiths. Qui Mick conosce due batteristi che si danno il cambio, prima John Cambridge e poi Mick Woody Woodmansey, che avranno un ruolo determinante nell'evoluzione della sua carriera. Il falco e il gabbiano. Mick Ronson suona con i Reds, però ha anche un piano B, fa il giardiniere nel municipio di Hull. La sera però continua a suonare, è talmente bravo che col passaparola la sua fama arriva alle orecchie di Elton John e del suo staff. Lui sta registrando l'album Tumbleweed Connection, siamo agli inizi del 1970, così Ronson, giardiniere di giorno e chitarrista di sera, partecipa al disco di Elton John e la traccia Madman Across the Water. Ma c'è un altro incontro destinato a cambiare per sempre la vita di Mick Ronson e anche il volto della musica di quegli anni. È un incontro che viene organizzato verso la metà del 69 dal batterista John Cambridge e dal bassista e poi produttore Tony Visconti. Lui dichiarerà così, ricordando quell'episodio: mi dissero che mi avrebbero presentato David Bowie. Ci incontrammo a casa di Tony Visconti. Bowie doveva partecipare a uno show radiofonico e mi chiese se volevo andare con lui. Suonai alcuni accordi mentre lui cantava delle canzoni che non avevo mai sentito, ma fu grandioso. Mi chiese di unirmi al suo gruppo. Io ero un po' in dubbio, perché non è che a quel tempo lui facesse chissà cosa e io dovevo lavorare. Ma poi l'eccitazione era tale che mi decisi. Eh sì, ecco il colpo d'ala. Lui suona alcuni accordi che vengono registrati e che vanno considerati il primo momento di collaborazione tra Mick Ronson e David Bowie. Vengono inseriti nel brano The Wild Eyed Boy from Free Cloud, che fa parte dell'album Space Oddity. E così il 5 febbraio del 70 Mick Ronson debutta con David Bowie e la sua band The Hype al John Peel Radio Sunday Show della BBC. In pochi giorni dopo suona nel suo primo concerto con Bowie nella famosa Roundhouse a Londra. È una performance storica e viene ritenuta la prima performance di glam rock. I componenti della band The Hype sono vestiti in maniera stravagante, hanno i lustrini, le paillette, il lurek, rappresentano dei supereroi. David Bowie è Rainbow Woman, Mick Ronson è vestito da Gangster Man, Visconti da Hyperman e John Cambridge da Cowboy Man. Il pubblico, come sempre, ci mette un po' di tempo quando si trova di fronte qualcosa di troppo grande per lui. E poi sono gli anni dei jeans, dei capelli lunghi, dei figli dei fiori, qualcuno fischia, la gente è spiazzata e Bowie naturalmente si diverte a scandalizzare, a stupire. Intanto John Cambridge lascia la band e arriva un altro amico di Mick Ronson, il batterista Woody Woodmansey, e i tre partecipano alla realizzazione del disco The Man Who Sold the World. Poi il gruppo, al quale si aggiunge un altro amico, il cantante dei Reds Benny Marshall, si ribattezza Ronno, il soprannome di Mick Ronson, e i Ronno realizzano un disco come dire extra rispetto alla carriera di Bowie. Il 29 gennaio del 71 ha un discreto successo questa 40th Hour of My Sleep. E intanto bisogna registrare l'album Anchi d'Ori di David Bowie, si comincia a fare sul serio. Arriva un altro bassista che è al posto di Tony Visconti, che vuole fare sempre più il produttore e meno il musicista dal vivo, e questo bassista si chiama Trevor Boulder. Quindi la band è pronta. Mick Ronson non è solo il chitarrista ma è anche l'arrangiatore, e al pianoforte c'è un signore che si chiama Rick Wakeman, e esce un album straordinario con brani come Changes, Life on Mars, Andy Warhol, eccetera eccetera. Il trio Ronson, Woodmansey e Boulder diventa a tutti gli effetti la band di David Bowie. Il primo concerto ufficiale viene considerato quello che si terrà il 25 settembre del 71 al Friars Club di Aylesbury. Bowie sta meditando un cambiamento epocale, un'invenzione straordinaria destinata a cambiare per sempre il corso delle vite di tutti loro e il corso della musica contemporanea. Ascoltate il ricordo di Bowie, sempre durante la trasmissione del 93 di Arsenio Hall, in cui parla di Mick Ronson. When I first heard him play, la prima volta che l'ho sentito suonare ho pensato: ecco il mio Jeff Beck, è fantastico, questo ragazzo è eccezionale, e ho voluto lavorare con lui a tutti i costi. All'inizio della nostra collaborazione non gli ho detto che ci saremmo dovuti travestire e truccare, perché Mick viene da Hull, è un tipo duro, veniva per lavorare. Quando avevo accennato qualcosa mi aveva chiesto: cosa intendi per make up? Così ho dovuto rigirare le cose. Ho detto: sembravi molto verde questa sera sul palco. Penso che se ti trucchi un po' avrai un aspetto più naturale. Ho usato bugie di questo tipo e gradualmente li ho portati tutti all'era dei costumi e dei travestimenti. Ed effettivamente, quando poi si sono resi conto di quello che potevano ottenere con quel look così strano di un altro mondo, beh, dopo ci si sono buttati a pesce. Eh sì, perché Mick Ronson non è un divo, è un chitarrista, non è uno che di sua iniziativa penserebbe di travestirsi, di truccarsi, e invece sappiamo poi quale sarà lo stile di Bowie e della sua band in quegli anni. Tra il settembre del 71 e il febbraio del 72 Bowie realizza uno dei suoi più grandi e geniali capolavori, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Abbiamo parlato a lungo di questo album nelle puntate che abbiamo dedicato a Bowie, il concept album leggendario che parla di un ragazzo che diventa una rockstar grazie a un aiuto alieno all'interno di un mondo che è sull'orlo dell'apocalisse, e dentro ci sono delle canzoni straordinarie, da Starman a Ziggy Stardust, Suffragette City, Rock and Roll Suicide, So Love, Five Years, eccetera. È un segno indelebile nella cultura musicale, dal glam rock al proto-punk, e anche del teatro, perché i concerti legati a Ziggy Stardust sono dei veri e propri spettacoli. Con questo storico album la band viene ribattezzata The Spiders from Mars, i ragni di Marte. Siamo in quella fase nella quale David Bowie si identifica con Ziggy Stardust, non si limita a delle esibizioni, diventa un personaggio, e così dovrebbe accadere anche per i tre: Mick Ronson, Trevor Boulder e Woody Woodmansey. Diventano a tutti gli effetti i ragni provenienti da Marte, e loro interpretavano, disse Bowie, la loro parte alla perfezione, erano la rock band numero uno dell'epoca, erano degli archetipi assoluti, sembravano usciti da un cartone animato, però erano anche dei grandissimi musicisti, e questo Bowie l'ha sempre sottolineato. Senza gli Spiders from Mars niente sarebbe stato uguale, soprattutto senza Mick Ronson. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è Mick Ronson, soprannominato Ron, un chitarrista straordinario con un suono personalissimo, ineguagliabile. Tra il 70 e il 74 è stata l'altra parte di David Bowie. Nei suoi album più famosi del periodo Ziggy Stardust lui è stato cantante, pianista, arrangiatore, autore, coproducendo album mitici non solo di Bowie, come vedremo. Era un perfetto animale da spettacolo, ma anche un modesto uomo dello Yorkshire, molto attaccato alle sue radici e alla sua famiglia. Ronson è l'elemento chiave nella band, nei concerti. C'è una foto mitica in cui David Bowie mima una fellazio, diciamo così, alla chitarra di Mick Ronson, e Bowie dirà che lui erano lo Yin e lo Yang, il Mick Jagger e il Keith Richards dei Rolling Stones, la personificazione del dualismo del rock. Lo stesso Mick Ronson dice così a questo proposito: quando ero sul palco io facevo quello che dovevo fare. Intendo dire che facevo quello che sentivo di dover fare. Sono convinto che il pubblico ha recepito esattamente quello che rappresentavamo David e io, perché David era più delicato, aveva un aspetto decisamente più femminile. Io invece saltavo sulla scena, ero più simile a una specie di muratore, veniva fuori quello che sono davvero. a parte le grandi performance, i grandi show sul palco, Ronson rappresenta il fulcro del mondo di Ziggy Stardust dal punto di vista musicale, grazie ai suoi arrangiamenti, al suo modo di suonare la chitarra, un modo personalissimo che lui ha cercato di spiegare nel corso di una lunga intervista, l'ultima che gli è stata fatta nel 1992, realizzata all'interno di quel teatro Hammersmith Odeon di Londra, dove lui e Bowie avevano suonato tante volte e dove ho suonato anch'io peraltro. È un'intervista bella, il teatro è vuoto, buio, Mick parla del suo stile, di come suona, e lo fa con una semplicità disarmante. La maggior parte dei suoni di chitarra nei dischi era fatta con... vedete, qui ho una Telecaster, ma la maggior parte delle volte suonavo una Les Paul. Anzi, tutti i dischi sono stati fatti con una Les Paul. E poi io, per fare quel suono un po' sgangherato, usavo un pedale Crybaby, un pedale wah-wah per distorcere, ma lo premevo solo a metà. Così lo lasciavo andare e ottenevo quel suono distorto, ma non troppo. Un suono a metà. E questo è il modo in cui ottenevo quella sonorità particolare. Andavo avanti così. È molto semplice. È semplice farlo. A sentire lui è semplice. Stiamo parlando di una tecnica personalissima, unica, che rende unico Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, e tutto l'album e tutto quel periodo, e i brani diventano immortali. Nello stesso periodo, nel 72, David Bowie produce l'album All the Endures dei mitici Mother Hoople di Ian Hunter, e Mick Ronson partecipa come chitarrista. Inizia una collaborazione molto stretta con Ian Hunter, che poi vedremo più avanti avrà degli sviluppi molto importanti per entrambi, nascerà un altro sodalizio. Nel 72 c'è un altro grande colpo d'ala di Mick Ronson, perché lui assieme a David Bowie produce uno degli album leggendari della storia della musica rock, Transformer di Lou Reed. Lo coproduce, suona la chitarra, il pianoforte, è l'arrangiatore. Lou Reed lo ringraziò più volte per il lavoro straordinario di Mick Ronson, un lavoro che ha reso Transformer uno dei suoi più grandi successi e l'album che lo ha portato alla notorietà internazionale, l'ha consegnato alla storia. Transformer è sicuramente il mio album meglio prodotto e gran parte del merito va a Mick Ronson. La sua influenza è stata superiore a quella di David Bowie, che era molto divertente, ma spesso in quel periodo era convinto di essere Ziggy Stardust. Comunque il nostro, quello di noi tre, è stato un sodalizio formidabile. Qui viene fuori la differenza sostanziale tra David Bowie e Mick Ronson, due personalità molto diverse che si completano in qualche modo. Il risultato di Transformer ne è un esempio eclatante. E la meravigliosa epopea di Ziggy Stardust and the Spiders from Mars prosegue per tutto il 72, per un tour imponente che si protrae anche l'anno dopo. E poi arriva il 3 luglio del 1973, ne abbiamo parlato più volte. Siamo all'Hammersmith Odeon di Londra. David Bowie fa l'annuncio che i fan non avrebbero mai voluto sentire. Everybody, this has been one of the greatest tours of our life. We really, of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest, because not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Insomma, David Bowie uccide Ziggy Stardust quel 3 luglio del 73, annuncia che questo è l'ultimo concerto di Ziggy Stardust. Bowie si sta per rivolgere ad altre figurazioni della sua mente, e ci sono varie ragioni, forse i rapporti tra i componenti, il management, tutto cambia. Poi Woody Woodmansey e Trevor Boulder si convertono a Scientology, iniziano delle problematiche anche con loro, però va detto che Bowie sta per sentire l'esigenza di avere una band diversa dagli Spiders from Mars, e ha dichiarato che loro non volevano andare dove voleva andare lui, cioè verso una soul music e altre forme di sperimentazione che lo porteranno prima a diventare il Duca Bianco e poi con Brian Eno e Fripp a varcare i confini della Germania, andare a Berlino per la trilogia, eccetera, insomma tutto quello che sapete. E Microsoft collabora ancora con Bowie per due album, Aladdin Sane e l'album Pin-Ups. Poi le strade però si dividono, anche se i due suoneranno ancora assieme altre volte. E intanto Mick Ronson inizia a lavorare nel 73 al suo primo album, Slaughter on 10th Avenue, album meraviglioso che vi straconsiglio. Esce nel febbraio del 74 con un'accoglienza ottima, molti giornalisti dicono che è pari a uno qualsiasi degli album di David Bowie, e io sono quasi d'accordo, ci sono molte tracce interessanti. E poi c'è un grande, c'è un successo di Elvis Presley che è Love Me Tender, e poi un successo suo è un singolo che va molto bene che si chiama Only After Dark. E poi inizia una collaborazione con Ian Hunter, l'ex frontman dei Mother Hoople. Ci sono molti album fatti assieme, l'album Welcome to the Club contiene molti assoli di Mick Ronson che gli valgono nel 74 il riconoscimento come secondo miglior chitarrista dell'anno dopo Jimmy Page e prima di Eric Clapton, non so, per dire. Nel 75 esce un altro album di Mick Ronson, Play Don't Worry, che non ha un successo come il precedente. Allora lui con un colpo d'ala decide di dedicarsi al suo strumento, alla chitarra, alla produzione. Ci sono grandi collaborazioni con Morrison, poi produrrà l'album Your Arsenal ancora con Ian Hunter, poi Van Morrison, e poi una grande presenza durante il mitico tour Rolling Thunder Review di Bob Dylan. Insomma, Ronson è un chitarrista che riesce a mettere il suo marchio di fabbrica anche con artisti diversi tra loro. Fa parte della band itinerante di Bob Dylan dal 75 al 76. E poi arriviamo a una data storica, 20 aprile del 1992, a Wembley si svolge il concerto di tributo a Freddie Mercury, 72.000 persone, tutto il mondo davanti alla televisione, tutti quelli che non erano a Wembley. E qui succede una cosa che pochi hanno fatto notare: tutti i grandi cantanti, tutte le grandi star cantano un pezzo dei Queen. L'unico che ha il privilegio di cantare un suo pezzo è Ian Hunter. Perché? Perché i Queen partirono come supporter dei Mother Hoople di Ian Hunter, e quindi Ian Hunter canta la sua All the Young Dudes. E qui c'è David Bowie al sax e Mick Ronson alla chitarra, ed è praticamente l'ultimo saluto di Mick Ronson al mondo, e l'ultimo saluto del mondo a lui. Sì, è l'ultimo concerto perché Ronson è già malato quando è sul palco di Wembley, realizza il suo ultimo album da solista, Heaven and Hell, che uscirà postumo nel 94, e muore il 29 aprile 1993 per un tumore al fegato a solo 46 anni. È una perdita tragica, perché un artista del suo calibro avrebbe potuto regalare ancora molto a tutto il mondo della musica. Eh sì, ci sono personaggi che la storia sono riusciti a farla, anche se magari da un gradino del palco più basso rispetto alle grandi rockstar. È il caso di Mick Ronson, uno dei chitarristi più struggenti quando voleva e più metal quando invece voleva pigiare sull'acceleratore. Se avete delle altre storie che voi volete che io vi racconti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure al sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei social, nei nostri social, Twitter, Facebook, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.